You may have noticed that Lorenzo uses two ways of saying very. First he says, È molto bello, è molto antico. It's very beautiful and very old. Then he says, È modernissimo. It's very modern. So, you can use the word molto, or you can attach the ending issimo to the word you want to modify. For instance, the basic form of modernissimo is in fact moderno. So, what could you say instead of è molto bello? Say it in the pause and then repeat the correct answer. È bellissimo. Now do the same for è molto antico. È antichissimo.